State ascoltando Popolare Network. Sono le 20:33 minuti, siete su Popolare Network, riprendiamo in diretta con ospite in studio Vittorio Agnoletto e Onorio Rosati, segretario della Camera del Lavoro di Milano. Stiamo parlando del libro scritto da quattro mani, da Vittorio Agnoletto e da Lorenzo Guadagnucci, che verrà presentato domani a Milano, Camera del Lavoro, a partire dalle 18. Io però volevo leggervi un testo che mi è capitato per le mani qualche giorno fa, visto che ci avviciniamo all'anniversario, molti vogliono scrivere su questo tema, Ritan Armeni sugli altri, che dice: la non violenza non nasce a Genova, ecco perché abbiamo sbagliato. Ritan Armeni è molto critica, diciamo così, su quanto su come la sinistra ha raccontato Genova, ecco, per essere un pochettino sommari. Genova è stata la fine di una fase, l'ultimo atto incerto, ambiguo dell'appena passato Novecento, quello in cui si comprende che c'è qualcosa che non funziona, ma non sono ancora i chiari comportamenti da adottare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la decisione. C'è invece un mensile come è quello di Emergency, che invece ha una posizione in questi giorni diversa. Noi abbiamo al telefono Angelo Miotto. Buongiorno Angelo. Buongiorno a voi. Angelo Miotto è stato fino all'altro giorno qui. Ciao Angelo. A Radio Popolare, Popolare Network, ha seguito Genova 2001 e quindi, visto che adesso lavori lì a Peace Reporter, hai avuto a che fare proprio sull'anniversario di Genova, su E, raccontaci invece qual è il vostro punto di vista. Ma è presto detto, perché il nostro punto di vista su è il mensile, che come hai ricordato appunto è il nostro mensile ed esce fra due giorni, il 6 di luglio, quindi mercoledì lo trovate in edicola, è quello di raccontarvi il seme di Genova. L'abbiamo titolato così perché, grazie anche agli articoli che abbiamo commissionato, ma soprattutto un'analisi, quella di Donatella Della Porta, che Radio Popolare e Popolare Network conoscono bene, come credo voi in studio, e che studia da anni i movimenti sociali, a suo dire, anche secondo noi, c'è un qualche cosa che lega il seme di Genova appunto nel 2001 con quanto sta accadendo nel 2011. Attenzione, non facciamo una correlazione diretta, le cose ci piace pensare che abbiano la loro storicizzazione ormai, perché ormai più di cronache forse possiamo anche parlare di storia quasi per quanto riguarda Genova. Però troviamo che sia il successo per il referendum, soprattutto i beni comuni, ma anche in parte nel fattore della partecipazione che ha riguardato le elezioni amministrative, Milano e Napoli ne sono un esempio fulgido, ecco, lì abbiamo trovato forse dei segnali che ci dicono che un certo seme che è stato sparso a Genova, quello che diceva prima Vittorio, è stato poi offuscato da quella che è stata la repressione e la Genova nel sangue anche, che abbiamo raccontato e ricordiamo sempre, ecco, quel seme lì invece è germogliato forse a diversi anni di distanza, è tornato a farsi sentire in quelle che sono le pratiche appunto della partecipazione. Io quindi... Vittorio, chiedo scusa, Angelo Miotto, giusto per amor di polemica nei tuoi confronti, appunto dal 2001 al 2011 sono passati 10 anni, dove invece questo movimento non ha brillato, diciamo così. No, certo, questo ovviamente lo prendiamo in considerazione, un po' con quella famosa espressione, la carsicità dei movimenti di cui abbiamo parlato tanto spesso, e cioè che non è soltanto quando la stampa, la stampa mainstream o la stampa anche invece, diciamo così, quella che si chiamava una volta la controinformazione se ne occupa, un movimento però prosegue spesso per vie che riemergono alcune volte appunto come fenomeno carsico, oppure si immergono e a un certo punto sembrano essere sparite. Però noi consideriamo anche il fatto che l'esperienza di Genova 2001 fu un'esperienza assolutamente internazionale, veniva anche ovviamente da altre conquiste internazionali della rete, dell'uso della rete e delle lotte per i beni comuni. Ecco, quell'esperienza internazionale si è in qualche maniera riprodotta e ha germogliato a diverse latitudini. Abbiamo degli esempi fulgidi per quanto riguarda per esempio Latin America, dove parliamo di democrazie rappresentative, dove il voto è stato un voto fecondo per portare esperienze di movimento al potere, e questo l'abbiamo visto in questi 10 anni come si è evoluta la questione. Abbiamo altri esempi di come invece le istanze del movimento, dei movimenti, si siano poi sparse per continenti, quale l'Asia o quale l'Africa, ricordiamo le ultime esperienze del Social Forum. È evidente che la formula del forum sociale per alcuni si è svuotata di significato, è evidente che in Italia si è detto che poi il movimento è scomparso, sicuramente nelle forme che abbiamo conosciuto nel 2001 probabilmente è scomparso, ma il seme è qualcosa di diverso, vuol dire che una parte di quella partecipazione, di quell'impegno, della questione del abbattere quelli che sono poi gli ostacoli dell'informazione più classica, per invece dialogare in quello che è stato sempre lo strumento principe già da allora, cioè la rete, per arrivare poi a mettere la fisicità in ballo. Quello invece secondo noi è qualcosa che è tornato, che torna a funzionare, che torna a far parlare di sé, a avere anche dei risultati. Per questo riconosciamo una sorta di paternità, sempre mantenendo, ripeto, le distanze, perché quello è giusto osservare, una sorta di paternità morale, una sorta di paternità politica nelle ultime affermazioni di partecipazione rispetto a quanto fu discusso e fu oscurato a Genova. Grazie allora Angelo Miotto, se volete continuare a leggere e seguire questo, diciamo così, ragionamento, da, è detto da dopodomani? Da dopodomani 6 aprile e il mensile in edicola, e appunto con il Seme di Genova che chiuderà, dopo tutti i ragionamenti che più o meno vi anticipavo, sul concetto di partecipazione proprio su Milano e Napoli. Ah, grazie, grazie, buona serata allora. Grazie a voi. Una domanda che voglio fare ad entrambi, sia da a Vittorio Nioletto sia ad Onorio Rosati. Non so se condividete questa analisi che diceva sommariamente naturalmente Angelo Miotto. Forse quello che però è mancato in questi 10 anni è questa capacità egemonica di un pensiero alternativo al famoso pensiero unico. Non c'è stata questa capacità da parte della sinistra, secondo me, del centro-sinistra, se vogliamo allargarlo, forse neppure anche i sindacati, che, come dire, ci hanno messo un po' a ingranare, Onorio Rosati. Ma a me sembra che la cosa che stai dicendo te sia assolutamente evidente dentro la critica alle ragioni della crisi economica che ha coinvolto, esatto, tutti i paesi occidentali negli ultimi 3 anni. C'è una crisi che avrebbe dovuto mettere in discussione le fondamenta di una cultura e di un'ideologia neoliberista, e che in realtà ha visto la sinistra ancora sulla difensiva, laddove governava perdere sistematicamente le elezioni, e oggi a 3 anni di distanza da questa crisi c'è il rischio che chi l'ha generata si proponga anche come l'unico soggetto in grado di individuare le ricette per uscire, naturalmente. Cioè ci salverà Tremonti, vuoi dire? Sì, no, nel senso che poi dalla crisi, se a uscire dalla crisi sono le ricette sono di quelli che ci hanno portato dentro, è evidente che poi si uscirà con maggiori disuguaglianze, maggiori discriminazioni, le ricette saranno quelle greche e purtroppo quelle che stanno venendo avanti con la manovra Tremonti, che sono ricette che colpiscono sempre i lavoratori dipendenti e pensionati, e non c'è un'idea alternativa, un modello alternativo di sviluppo che ha la capacità di affermarsi, non dico nella sua concretezza, ma almeno dentro un dibattito politico di carattere più complessivo. Io penso che questo sia un problema che deriva da tante debolezze, da tante timidezze. Nel senso che io penso che, per come vedo io una società democratica, i movimenti debbano necessariamente essere di stimolo nei confronti della politica, però poi la politica prima o poi si deve far carico di portare parte di questi contenuti dentro le istituzioni, di farla diventare battaglia nell'istituzione, battaglia parlamentare, battaglia politica e culturale anche nel paese. Non sempre questi due aspetti hanno camminato insieme, e alla lunga non hanno aiutato a rigenerarsi dal punto di vista dei partiti, e alla fine i movimenti non hanno trovato degli interlocutori. Questo forse può essere anche il motivo del perché oggi non ragioniamo poi di un modello di movimenti come quello che abbiamo conosciuto nel 2001. Adesso sentiamo anche gli ascoltatori. Lasciami essere un po' antipatico, vediamo se riesco a farvi litigare, Vittorio Nioletto, Onorio Rosati. Ma ti aspettavi dei discorsi di questo genere dalla CGIL nel 2001? 2001 stiamo parlando ovviamente di Genova, G8. Beh, intanto io penso che sia importante che la CGIL ha deciso che al decennale di Genova ci sarà. Ho la presunzione di dire che forse questo è anche stato uno dei risultati del lavoro che il movimento ha fatto, continuando a chiedere da un lato verità e giustizia. Oggi sappiamo cosa è avvenuto a Genova, quali sono le responsabilità, però mi si permetta, andrei un po' più a fondo del ragionamento. Per me è stato interessantissimo rileggere i discorsi del Public Forum di Genova nel 2001, certo, prima della repressione. Ti interrompo solo per dire che non a caso chi ha voluto, come dire, le mostre, le iniziative per il decennale l'ha chiamato Cassandra. Esatto. Come dire, noi avevamo visto giusto. Quella figura mitologica, tragica dell'antichità, che sa prevedere il futuro ma non riesce a modificare il corso della storia. E questa è stata quello che è accaduto al movimento italiano e al movimento europeo. C'è un intervento di Valdembello fatto a Genova nel 2001 che è incredibile, nel senso che lui dice: attenzione, se va avanti questo modello di sviluppo si arriverà a un conflitto irrisolvibile tra sviluppo economico basato solo sulla quantità e equilibri biosferici, equilibri climatici. E aggiunge: andiamo incontro a una delle più grandi crisi che ci sia mai stata, con una enorme disoccupazione. Valdebello non era Cassandra, non era un veggente, è semplicemente un esponente dei movimenti che aveva analizzato a fondo la crisi degli anni 90 delle tigri asiatiche, cioè venute in Estremo Oriente, e ne aveva tratto delle conclusioni. Allora il movimento ha avuto la capacità di capire cosa stava accadendo, di capire che la risposta doveva essere globale, di capire per esempio che la finanziarizzazione dell'economia avrebbe portato una crisi enorme sul piano occupazionale. Banalmente siamo attorno alle riserve e dei derivati finanziari della sola Banca d'America sono oltre 6 volte superiori al prodotto interno lordo di tutto il mondo, cioè quindi significa che chi guadagna guadagna sulle speculazioni finanziarie, non sugli investimenti produttivi. Questo l'avevamo capito. Dopodiché non siamo stati capaci in Europa di trasformare queste grandi analisi in qualcosa di semplice e di comprensibile, sapendo che quando la crisi sarebbe arrivata avrebbe colpito principalmente i soggetti più deboli, perché se una 10 li togli 2 vive con 8, se una 2 li togli 2 non vive con nulla, e in quel momento le nostre analisi, i nostri temi, che erano veri e corretti e giusti, ma sembravano molto lontano da chi doveva arrivare a fine mese. Quindi lì c'è stato sicuramente una incapacità di tradurre questi grandi temi nella vita quotidiana. Io però nel libro scrivo insieme a Lorenzo, scriviamo facendo un esempio che non è bello perché è di guerra e non ne avevamo trovato un altro, che la funzione del movimento in Europa è una funzione tipo le trincee della prima guerra mondiale. Noi dobbiamo resistere nello scontro con la globalizzazione liberista. Chi può andare avanti, fare dei salti maggiori, sono i movimenti collocati in altre parti del mondo, in America Latina, ma anche in Africa e anche in Asia. Noi però non abbiamo un compito secondario, perché se cediamo noi arretrano tutti. Guardate che quello che ha fatto Correa in Ecuador è incredibile. Cioè Correa è figlio di questo movimento, poi diventa presidente dell'Ecuador ma nasce da questo movimento, scopre in Ecuador che sotto la sua regione amazzonica c'è il petrolio. Correa decide di non tirare fuori il petrolio perché vorrebbe dire distruggere un bene comune, cioè un pezzo dell'Amazzonia che è un pezzo del polmone mondiale, e chiede alla comunità internazionale di pagare all'Ecuador il 50% di quanto avrebbe potuto guadagnare vendendo il petrolio per salvare un bene comune. La logica dei beni comuni nasce tra Porta Alegre, gennaio 2001, Forum Sociale Mondiale, e Genova, luglio 2001. Beni comuni vuol dire l'Amazzonia in Ecuador, vuol dire l'acqua, il referendum vinto in Italia, vuol dire l'acqua come diritto nella Costituzione dell'Uruguay. Allora, non abbiamo ottenuto un grande risultato sicuramente sul terreno politico, però abbiamo seminato. Io sono totalmente d'accordo con Miotto, con Angelo Miotto, e il germoglio c'è stato 10 anni dopo, nella vittoria referendaria, e sono anche d'accordo con Angelo anche nelle vicende di Milano e di Napoli, perché la modalità di organizzazione dei comitati, che sono comitati che hanno fatto politica ma organizzati su base paritaria e fuori dai partiti, ha le radici questa organizzazione in come era organizzato il GSF a Genova nel 2001. Abbiamo 13 minuti a nostra disposizione, vi proporrei per un secondo di prendere qualche telefonata, 0233 001 001, se vogliono rivolgere delle domande, poi naturalmente un ultimo giro di tavolo, come si suol dire, con Vittorio Gnoletto e Norio Rosati. Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera, puoi parlare la voce un po' più alta, per favore? Sì, ci provo, ci Grazie. Provo. Prego. Allora, domande. Io mi ero fermato all'ultima domanda che avevi posto tu, cioè circa le possibili similitudini tra Val di Susa e Genova. Vi ha colpito quella, l'ho capito. Sì, a caldo era inevitabile. E qual è, secondo te? Ma guarda, io tralascerei le similitudini, diciamo così, della reazione del potere dal punto di vista repressivo, oppure della mancata capacità di coinvolgere le comunità locali in decisioni per le quali ne va del loro futuro, e andrei piuttosto alla questione relativa al fatto che nei movimenti non c'è né bianco né nero in maniera così evidente. Cioè, penso a Genova, Vittorio citava appunto il caso delle tute bianche e il processo che ha riconosciuto non solo il fatto che siano state attaccate in maniera illegittima, ma ha riconosciuto che gli imputati nel processo hanno reagito legittimamente ad atto illegale. Per cui in qualche modo riconoscendo in una certa misura il diritto di resistenza in quella data circostanza. E poi volevo rifarmi all'intervento del... Ti prego di essere sintetico. Sì, sì, sì. Dell'ascoltatore che in maniera concitata diceva che i valsusini erano dalla parte di chi faceva gli scontri. Io non riuscirei a essere così drastico, non ero lì, però anche in quel caso non credo che ci sia bianco e nero tutto da una parte, ma era gente normale quella che con l'azione diretta aveva pensato di riappropriarsi del cantiere, come fu già fatto nel 2005 a Venanus. Va ricordato, in quel caso fu considerato una grande vittoria del movimento. Ti fermo qui, grazie, buona serata. Pronto? Ciao Franco. C'è una bella battuta su Spinoza.it che accomuna Genova alla Valsusa, che più o meno recita così: che Berlusconi aveva promesso di portare il G8 alla Maddalena e l'ha fatto, almeno una promessa l'ha mantenuta, mi ha fatto sorridere parecchio. Io Genova l'avevo vissuto come un momento che mi era sembrata una fine del movimento, e in effetti devo ricredermi adesso, è stato effettivamente un germoglio, devo dire un germoglio che è cresciuto anche grazie a parecchio concime che i nostri governanti involontariamente hanno buttato. E approfitto della presenza di Rosati per dire che purtroppo anche l'ultimo accordo che ha firmato la CGIL con CISL e UIL è una bella palata di letame. Senti, quanti anni hai? Io 38 e sono lavoratore interinale. Quando ero a Genova ne avevo 28, sono passati 10 anni e il mio futuro è sempre più stretto. In questo senso è stato concimato il movimento di Genova. Concimato con della gran merda, proprio. Grazie. Mi piace dirlo, ciao. Ciao, buona serata. Prendiamo la terza telefonata e poi le risposte vostre. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Alessio Fondasetti, buonasera. Prego. A tutti. Buonasera. Senti, io sono coordinatore del tavolo permanente Malpensa, condivido tutto quello che avete detto. Ecco, cos'è il tavolo permanente Malpensa? Scusami, ma nessuno di noi sa cos'è. Ecco, è una novità, nel senso che è un tavolo virtuale che riunisce tutte le associazioni che sono attive sul tema della pista Malpensa. E anche sulla quotazione di SEA alla borsa di Milano. Ho capito, c'è un problema legato all'aeroporto della Malpensa, va bene. È enorme, sì, c'è un problema enorme, okay. Poco conosciuto, ma che potrebbe poi, se va avanti, diciamo, così come è stato impostato da SEA di Milano, sicuramente portare a una situazione molto delicata, difficile sul territorio. Adesso non dico come quelle che state raccontando, però volevo solo segnalare che c'è un grosso problema. In questo momento in discussione tutti i comuni sono della provincia di Varese, della provincia di Novara, sono attivi per cercare di contrastare la costruzione della terza pista. Sì. Che evidentemente porterà uno sconvolgimento sia sul territorio di due province importanti. Ho capito, però guarda, tutto questo c'entra assai poco con la discussione di stasera, devi essere molto sintetico, abbi pazienza, ne parliamo un'altra volta. No, beh, non è che c'entra poco, c'entrerà moltissimo, nel senso che ci sono delle avvisaglie che poi, voglio dire, porteranno sicuramente a dover riaffrontare questo argomento, magari fra 6 mesi, 1 anno, però in una chiave molto più delicata, più difficile, se le cose andranno avanti come sembra che andranno avanti, ecco, quindi... si creerà una situazione molto simile. Ma delle domande da rivolgere a Vittorio Agnoletto e Onor Rosati, era questo che ti arriva? La domanda è se qual è la consapevolezza, diciamo, di questo tema, se c'è la disponibilità a parlarne per fare in modo che tutte le contraddizioni e i temi delicati che stanno emergendo verranno fuori e la possibilità di discuterne. Va bene, così grazie. Come si discute di TAV, come si discute di Genova, eccetera, eccetera. Ti ringrazio, buona serata. Allora, potete anche saltare la risposta su Malpensa, anche perché non è un quiz quello dove voi dovete sapere tutto su quello che accade in questa regione. Posso dire solo una cosa, c'è un'ascoltatrice per esempio che ci scrive, lei dice che è un'ascoltatrice, era in Valsusa, conferma tutto quello che il ragazzo di prima ha detto, niente black bloc, nessuno gruppo di minoritari, ora di smetterla, eccetera eccetera, smettetela di divulgare falsità. Io non so, penso si riferisca a noi a questo punto, ma noi non abbiamo detto niente di tutto questo, mi colpisce perché sia l'ascoltatore che ha chiamato prima, sia questa ascoltatrice invece ci mettono un carico di passione in quello che sta succedendo enorme. A me ha fatto impressione questa cosa. Questa cosa la considero molto delicata, perché ripropone il tema del rapporto tra movimento e anche atti di violenza come quelli che ieri in parte ci sono stati. Certo. Io prendo per buone alcune interviste che sono apparse oggi sui giornali degli organizzatori della manifestazione di ieri, i quali dicono che la manifestazione è stata una manifestazione organizzata da una serie di associazioni, una serie di reti di sindaci, istituzioni locali e quant'altro, ed è una manifestazione che aveva scopi e assolutamente pacifici e che si è svolta nel modo più pacifico. Dopodiché ci sono state vicende di quella natura lì sulla cui paternità però gli organizzatori non si sono sentiti di assumersi nessun tipo di responsabilità. Io vorrei che fosse molto chiara anche questa cosa, perché mescolare un aspetto con l'altro secondo me rischia di creare un danno non indifferente. Poi anche le vere ragioni che hanno portato poi a organizzare questa manifestazione, io starei molto attento a non far passare. Io rimango alle dichiarazioni degli organizzatori, molto responsabile fatto dagli organizzatori della manifestazione di ieri, che mi pare che a questo riguardo siano state chiarissime nel voler separare le due cose, non per non assumersi anche le loro responsabilità, ma per collocarle in un quadro di riferimento un po' diverso. Volevo sì. Intanto rassicurare quel lavoratore a proposito del letame, che la CGIL naturalmente come da statuto farà la consultazione di tutti i lavoratori iscritti. Avremmo voluto farla unitaria, quindi l'avremmo fatta dei lavoratori. Si sta riferendo in questo caso a Mario Rosati, all'accordo che firmato. Quindi ci sarà la possibilità di votare, di esprimersi, lo si farà molto probabilmente a settembre, il voto sarà vincolante per decidere se a quel punto sottoscriverò o meno l'intesa che è stata fatta con Confindustria. E visto che ci sono, ricordo che domani voi avete un direttivo. C'è il direttivo nazionale che voterà il testo, ma sarà un giudizio del direttivo che verrà poi riportato nell'assemblea, ma ripeto, sarà la consultazione, solo l'esito della consultazione che definirà se la CGIL firmerà o meno l'accordo. Io penso che questo sia un elemento di garanzia per tutti, e anche per evitare che poi ci siano, diciamo così, dei toni eccessivi. Anche dovremmo andare a parlare con i lavoratori di tutto il comparto dell'industria, e quindi io penso che lo si dovrà fare con un senso anche di responsabilità da parte di tutti, insomma. Questa è la prima cosa. La seconda questione, perché poi facciamo, io vorrei sottolineare due aspetti. Domani c'è la presentazione del libro in Camera del Lavoro. Per noi è un atto con significato molto importante, che io vorrei qui spiegare in due parole. Il primo significato è che noi, anche in ragione del coraggio che hanno avuto Vittorio e Lorenzo nel scrivere questo libro, io penso che ci sia l'esigenza che un'organizzazione rappresentativa come la CGIL scenda in campo perché tutte le non verità di questo paese vengano fuori, e scenda in campo anche per garantire, diciamo così, quel risarcimento morale nei confronti delle tante vittime. Io parlo ad esempio dei genitori di Carlo Giuliani, delle persone che sono state vittime di queste percosse. Cioè c'è una parte della storia di questo paese che in ragione anche di questo libro viene oggi riportata alla luce. È un libro d'inchiesta, un libro d'indagine molto importante, al quale naturalmente potrebbe benissimo farne seguito un altro, chiarire qual è stato il movente politico che ha prodotto tutta la vicenda di Genova, perché che ci siano state coperture sino ai massimi livelli istituzionali è fuori di dubbio. Purtroppo queste coperture in alcuni casi abbiano coinvolto sia i governi di destra che i governi di centrosinistra, e purtroppo un'altrettanta verità quale sia il movente politico vero di fronte a una vicenda che non può essere soltanto la sommatoria di tante concause. Io penso che sia un ragionamento che meriterebbe la trattazione di un altro libro. Ecco, e invece purtroppo dobbiamo andare a stringere. Una battuta e chiudo. Sì. Da Genova cambiano anche i rapporti della CGIL nei confronti dei movimenti. Io penso che questo sia una cosa assolutamente importante. Le cose che venivano dette prima sui beni comuni, sulla partecipazione anche nostra nell'organizzazione del referendum e la raccolta di firme per quanto riguarda l'acqua, è cambiato qualcosa. La CGIL si è aperta partecipando al confronto di Genova nelle sessioni precedenti, poi anche le ultime manifestazioni che ci furono. Ed è una cosa che poi ha prodotto dei risultati anche sul territorio. Devo dire che questo è un fatto per noi molto importante e volevo qui sottolinearlo. Vittorio Noletto, andiamo a chiudere con te adesso perché il tempo a nostra disposizione è finito. Io lo dicevo all'inizio proprio della trasmissione, dicevo, Genova è diventata per molti italiani, ma non per tutti, quel simbolo di cui abbiamo parlato questa sera. Alle iniziative, alle presentazioni dei libri a cui stai andando, che tipo di persone incontri? Trovi, lo dico in maniera la più brutta, ma anche per semplificare, trovi reduci o trovi persone che invece vogliono discutere dell'oggi, anzi del domani in qualche modo? Trovo persone molto diverse fra di loro, per provenienza di età e per provenienza sociale, e trovo tantissima gente, perché sono sempre molto affollate le presentazioni, che dice: io allora non avevo capito, ho avuto bisogno di tempo e ancora oggi ho bisogno di capire. e credo che questo sia estremamente importante, perché quello che è avvenuto a Genova non riguarda solo quei 300.000 che erano a Genova nel 2001, riguarda l'insieme dei cittadini italiani che devono essere preoccupati che a dirigere l'ordine pubblico, a dirigere i servizi, vi sono persone condannate, vi sono persone che hanno commesso dei reati gravi e che invece dovrebbero tutelare il dettato costituzionale, e dovrebbero essere preoccupati anche sulle ragioni politiche di quella repressione, perché non dimentichiamoci che era un contesto internazionale e che venir represso non è stato semplicemente, tra virgolette, un movimento italiano, ma un movimento che in un anno e mezzo, da Seattle nel 99 fino a luglio 2001, stava crescendo fortemente in tutto il mondo e che era l'unica alternativa allora alla globalizzazione finanziaria. E la repressione nasce da questa ragione politica. Ci tengo a dirlo, perché mi hanno detto alcuni che soprattutto ragazzi giovani, 20 anni, leggendo il libro a un certo punto dicono ci sembrava di leggere un giallo. Ecco, purtroppo può sembrare un giallo, perché e molti non credono a quello che, se non ci fosse stato anche un magistrato a scrivere con noi questo libro, molti forse non ci avrebbero creduto. Ma non è un giallo, non è un frutto di fantasia, racconta fatti veri che dietro hanno motivazioni politiche non solo di tipo nazionale ma di tipo internazionale. Ricordo solo che domani è alle 18 la presentazione alla Camera del Lavoro. L'abbiamo detto tre volte, Vittorio Agnoletto, ma siccome diciamo in generale 4. La facciamo alle 21 è bene dire che invece alle 18. Allora no, io adesso al di là delle battute, visto che ci conosciamo da tempo, secondo Rosati con Vittorio Agnoletto, però il tema effettivamente sono di quelli che ha ragione Rosati, bisognerebbe riaprire altri due trasmissioni come questa e ricominciare da zero con tutti i temi che sono stati io affrontati. Io mi accontenterei se Radio Popolare ci terrei molto, riaprisse o farà sentire nei prossimi giorni quello che voi avevate prodotto. Lo faremo. Del materiale audio veramente interessantissimo per costruire quelle giornate. Ringrazio l'occasione per dire, perché stiamo effettivamente ragionando su fare una settimana di trasmissione, diciamo così, un po' speciale anche addirittura da Genova, quindi grazie di Tonietto che ha dato questa possibilità. Se siete a Milano a queste parti domani pomeriggio dalle 18 venite alla Camera del Lavoro, non ci sarà Onorio Rosati, lo diciamo subito, perché Onorio Rosati appunto sarà lì a quel direttivo, perché la vita va avanti e appunto avete bei problemi da discutere, fascicola con la testa Onorio Rosati. Grazie per aver partecipato a questa trasmissione, microfono aperto, torna domani sera alla stessa ora.